sudato ed agitato, disteso nel mio letto, più solo che mai. Sognavo di cadere da una diga strabordante di un oceano di colori, pronto a inondare il mio mondo con acqua di fantasia. E in fondo quella valle si vedeva solo un letto, il mio corpo ben disteso, più fermo che mai. Pensavo fosse un sogno che non facesse male, ma non vedo più pareti e sento chiaro il rumore di un'onda che sale. Mi sveglio nella notte, sudato ed agitato, buttato giù dal letto, più solo che mai. Pensavo di morire in balia di una corrente che mi strappa via dal corpo, pronto a lanciarmi sin oltre le storie di fantasia. Mi scuoteva, mi affondava, mi salvava e mi sperdeva, ma contento io perché saliva sempre più su. Sapevo che era un sogno sempre più reale, l'unico che può portare via dalle leggi che il mondo reclama. Travolge ogni cosa, si ferma. pensare, un'onda mi spinge sempre più su, insela il corpo con la sabbia del mare, un'onda mi spinge sempre più su, divide il mio corpo dal mio pensare, un'onda mi spinge sempre più su, insela il corpo con la sabbia del mare, un'onda mi spinge sempre più su.